e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Prepariamoci per l'esodo, il grande esodo, un esodo. Oggettivamente, più che un esodo, per qualcuno si è rivelata e si sta rivelando una vera e propria odissea. Ci riferiamo all'uscita dal mondo del lavoro per quegli italiani che avevano interrotto il proprio rapporto di lavoro in conseguenza di accordi di ristrutturazione aziendale o di crisi aziendali, contando su un immediato accesso alla pensione, ma che hanno visto invece di colpo allontanarsi questo traguardo con la riforma pensionistica di Elsa Fornero, che ha previsto l'innalzamento dell'età pensionabile o in ogni caso una modifica dei requisiti per accedervi, una riforma come ricorderete bene anche molto contestata, che ha avuto il merito di mettere in sicurezza le casse previdenziali italiane, ma che ha messo in difficoltà molte persone. Questi sono gli esodati di cui tanto spesso parliamo e sentiamo parlare. Se siete fra questi, iniziate a comporre l'800240024 e a dirci qual è la vostra situazione e come la state gestendo. Sicuramente starete seguendo le notizie di questi giorni. Proprio in questo momento è in corso una manifestazione a Roma che vede in piazza gli esodati insieme alle lavoratrici che vorrebbero usufruire invece della cosiddetta opzione donna, per dirla in breve, la possibilità di andare in pensione prima, accettando un assegno inferiore perché calcolato interamente con il metodo contributivo. Perché questa manifestazione che vede tutti questi attori insieme? Perché il governo ha preannunciato, ma poi lo ha smentito, l'indisponibilità dei fondi che sarebbero necessari per concedere una salvaguardia, la cosiddetta settima salvaguardia, per permettere ai lavoratori esodati, appunto, che si trovano di conseguenza in queste situazioni anomale, di mantenere le precedenti regole di pensionamento. Insomma, una situazione molto confusa. Noi cerchiamo stamattina di fare chiarezza e di rispondere alle vostre domande, che ci potete fare oltre che al numero verde anche alle 349-238-6666. E non sarà sfuggita ai nostri ascoltatori e soprattutto ai donatori la polemica sulla donazione di sangue del sindaco Marina scatenata da Storace. Noi non entriamo nel merito, ma la Querelle ci offre lo spunto per parlare di donazione del sangue, tema a noi particolarmente caro, e partiremo nella seconda parte della trasmissione da due aspetti che la vicenda ci offre: le sospensioni temporanee, le ragioni possono essere diverse, una ad esempio riguarda chi si trova a soggiornare anche solo per una notte nelle aree geograficamente interessate dalla problematica del West Nile virus, come gli Stati Uniti, e l'altra invece è la carenza di sangue di questa fine estate. Allora, siete donatori? Chiamate. Ci avete pensato tante volte, ma poi presi da mille impegni avete sempre rimandato. Vivete grazie alla generosità dei donatori? Io voglio ricordare che la donazione permette non solo di salvare la vita a chi è vittima di un incidente, a chi ha necessità di sangue per i trapianti o per le operazioni chirurgiche, quindi questo è molto importante, ma soprattutto permette la vita a migliaia di persone che soffrono di patologie legate al sangue e che necessitano in maniera periodica o addirittura giornaliera di trasfusione e farmaci plasma derivati. Quindi 800 24 00 24, partiamo dall'attualità, da questa polemica che rischia anche di finire in tribunale, per fare una riflessione con voi sulla necessità di diventare donatori, di donare sangue regolarmente. Riprenderemo naturalmente i requisiti, ma parleremo anche dei casi in cui, come accennava Storace per Marino, la donazione di sangue dovrebbe essere temporaneamente sospesa. Quindi vi aspetto. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Allora, Nicoletta ha utilizzato poco fa la parola che potremmo dire questa mattina può rappresentare il fil rouge del nostro programma: requisiti. Parleremo di requisiti pensionistici oltre che di quelli necessari per fare la donazione di sangue. Dopo la riforma Fornero, necessaria ma quanto mai dolorosa per molti, su due categorie di lavoratori abbiamo tenuto i riflettori accesi e puntati in maniera costante: gli esodati e le lavoratrici dell'opzione donna, cioè da una parte parte quei lavoratori che sono usciti dal lavoro ma non hanno ancora maturato e perfezionato i requisiti pensionistici, nel frattempo modificati dalla norma. Dall'altra parte le donne che avrebbero la possibilità di lasciare il lavoro in anticipo accettando il calcolo integralmente contributivo dell'assegno pensionistico, ma sempre per una questione normativa non riescono a farlo. Perché torniamo a parlare di questi lavoratori? Perché oggi sono tutti a Roma a manifestare, in quanto per mancanza di risorse il governo potrebbe bloccare l'opzione donna e bloccare la settima salvaguardia per gli esodati. Noi tra poco andremo a Roma a sentire la voce di chi protesta, ma cercheremo anche di spiegare bene i termini della questione a beneficio di chi non è in queste categorie, ma è bene che sappia ciò che sta accadendo. A tenere il filo di tutto ci aiuterà un amico di Cuore Denari, il nostro esperto di questioni previdenziali, il dottor Fabio Venanzi, che salutiamo. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Nicoletta. Bentornato. Grazie. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Vedo già alcuni ascoltatori che si stanno mettendo in lista d'attesa per raccontarci magari il caso che stanno vivendo nella propria famiglia o commentare queste situazioni. Poi 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Ci scrive Donatella: mi sono iscritta a opzione donna, per me è l'ultimo treno, solo Dianella Maroni, Orietta Armiliato e le altre ne comprendono l'importanza. Ho letto questo messaggio citando anche questi nomi proprio perché noi tra poco andremo a Roma e ci collegheremo con Orietta Armiliato, che è la portavoce di questo comitato Opzione Donna. Intanto, Venanzi, facciamo un riepilogo molto veloce della questione. Bene. Chi è, per la precisione, l'esodato e che cosa vuol dire salvaguardia? Allora, l'esodato è quel lavoratore che aveva firmato con l'azienda o comunque si trovava in una situazione tale che gli avrebbe consentito di accedere alla pensione durante un periodo in cui percepiva la cosiddetta prestazione a sostegno del reddito, e quindi mobilità ordinaria, mobilità lunga oppure cassa integrazione straordinaria e altri casi analoghi. Sono esodati perché sono usciti dal mondo del lavoro, però nel frattempo è cambiata la normativa che consentiva loro di accedere alla pensione durante il periodo in cui fruivano di questa indennità, per cui si sono visti spostare in avanti anche di 5-6 anni il requisito per accedere alla pensione. E questo diciamo vecchiaia. È anche un po' il motivo per cui c'è stato grandissimo clamore, perché non si tratta di 2 mesi. Esatto. Di persone che rimangono senza anni, trattamento economico di qualunque tipo, ma di anni e anche molti a volte. Ecco. Esatto, e la salvaguardia consente loro di accedere alla pensione con i vecchi requisiti, quindi con quelli che erano vigenti quando hanno iniziato a percepire quel trattamento particolare, anche se poi in realtà per la generalità dei lavoratori i requisiti sono stati innalzati. Infatti loro continuano ad accedere con i requisiti antecedenti vigenti prima della riforma Fornero. 7 le salvaguardie previste, 6 effettuate, perché la settima è a rischio, Venanzi? Mancano i fondi, perché in realtà la Commissione Lavoro aveva considerato le economie realizzate dalle prime 6 salvaguardie. In realtà la Ragioneria Generale dello Stato, il MEF in particolare, ha detto che in realtà quei soldi non utilizzati sono confluiti in avanzo, in economia di bilancio, e quindi non possono essere utilizzate per dare copertura a questa settima salvaguardia. Allora, prima della pausa per il traffico, sono già in ritardo, ma una veloce descrizione anche dell'opzione donna e perché è abbinata agli esodati in questo caso, vorrei che lei ce lo spiegasse, Venanzi. Entro il 31 dicembre di quest'anno scadrà il termine per esercitare l'opzione donna, appunto, che prevede 57 anni di età e 3 mesi, con 35 anni di contributi e con un'attesa almeno di 12 mesi di finestra mobile. Ricordiamo invece che per le autonome i requisiti sono 58 anni e 3 mesi e la finestra mobile è di 18. La riforma del 2004 aveva previsto la possibilità di ricorrere a questa possibilità fino alla fine di quest'anno. Anche qui non c'è un plafond massimo di spesa, quindi tutte le lavoratrici che possono vantare questi requisiti potrebbero accedere all'opzione, e questo fa sì che per la Ragioneria e per il MEF la spesa rimanga un po' sotto controllo, perché non è preventivabile quante saranno le persone che effettivamente ricorreranno a questa opzione. Ricordiamoci che quest'anno si accede alla pensione con quasi 42 anni di contributi, e quindi accedere con 57 anni di età e 35 è un bello sconto. Certo. Allora, intanto noi non possiamo fare altri sconti, dobbiamo andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme, abbiamo già i nostri ascoltatori che vogliono parlare con noi, con il nostro esperto. A tra poco. Cuore e denari. Donne, in cerca di guai. Donne, un telefono che non suona mai. Non è che ce li cerchiamo, a volte vengono proprio loro a trovarci. Esatto. E invece, a proposito di donne che non rispondono mai al telefono, risponde come questa mattina Orietta Armiliato, portavoce del comitato Opzione Donna, responsabile diciamo della comunicazione, perché è stato necessario anche fare una buona comunicazione sulla campagna condotta da questa da questo comitato spontaneamente sorto qualche tempo fa. Le donne di Opzione Donna insieme a un gruppo di esodati sono al Ministero dell'Economia e le Finanze questa mattina a protestare in maniera molto vivace. Orietta, buongiorno. Eccoci, sì, perfetto. Eccoci. Allora cerchiamo intanto di dar subito voce alla vostra iniziativa di questa mattina. Sento già dei fischi in sottofondo. Orietta, raccontandoci anche il suo caso, possiamo far capire agli ascoltatori che non si sono mai interessati a questo tema, perché ovviamente adesso magari in questo momento non li riguarda o non riguarda le lavoratrici, cosa vuol dire per lei esercitare l'opzione donna? Allora, per me Orietta Armiliato è... posso rappresentare un grande numero di donne che per una serie di motivi diversi sono rimaste senza lavoro all'età di 57 anni, laddove il turnover lavorativo e il rimpiazzo è praticamente impossibile, e quindi senza alcuna tutela retributiva potersi pensionare come opzione donna significa non pesare su quelli che sono gli ammortizzatori sociali, NASPI e quant'altro, ma prendere la nostra pensione così come abbiamo versato, perché come sapete, come avete detto, noi andiamo in pensione con il puro metodo contributivo. Tanti contributi versati, tanti ci vengono corrisposti. Perché lei adesso non riuscirebbe a poter chiedere questo trattamento, Orietta? Perché nel 2012 l'INPS arbitrariamente ha emanato delle circolari attuative che hanno ridotto di circa di più di un anno la possibilità di accesso ad opzione donna. Orietta, noi abbiamo conosciuto il vostro comitato nell'agosto del 2014, poi ci siamo risentiti un'altra volta nel giugno scorso. Vogliamo riassumere i passi principali della vostra protesta che culmina proprio oggi in questa nuova manifestazione a Roma? Assolutamente sì, volentieri. Il comitato Opzione Donna, che è stato fondato da Dianella Maroni. Perché ogni tanto la perdiamo. È stato fondato da Dianella Maroni, che conosciamo. Mi sono rifugiata in un bar, ragazzi, perché veramente quando lì io se ne... Va bene, siete in tanti, siete in tanti? Sì, siamo un parecchio. Noi come Opzione Donna siamo circa 150 donne. L'operazione è congiunta con gli esodati, che sono forse anche meno di noi, perché la forza delle donne è la forza delle donne. Ricordiamo quindi, appunto, cosa avete fatto con questo comitato e che risultati avete raggiunto, Orietta? Allora, intanto abbiamo fatto questo comitato muovendoci su un piano strategico che voleva dire visibilità, conoscenza, numero, per poter anche mettere in piedi una diffida e poi una class action avverso INPS e Ministero del Lavoro. Ci siamo riuscite, 700 donne delle 3.500 facenti parte del Comitato Opzione Donna hanno intentato una class action che avrà la sua prima udienza. Se non risolviamo in via politica, perché ormai non è anche più una via amministrativa, è solo una via politica, noi in sei siamo al TAR del Lazio o la prima udienza. Ecco, quindi questo è in qualche maniera intanto il biglietto da visita con cui vi siete presentate questa mattina al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il vostro comitato, a prescindere dalla class action, si è sempre caratterizzato anche per una forte connotazione propositiva. Cosa intendete chiedere questa mattina a Padoan, se vi riceverà? Non lo so, so che Dianella è già entrata al MES. Rimasta io, Dianella è entrata al MES con una delegazione anche di esodati di quota 46. Allora, quello che noi vogliamo chiedere al ministro Baretta, ma in primis all'onorevole Baretta e al ministro Padoan, è che rimetta nelle poste di bilancio il fondo che deve coprire la prima tranche di ingresso delle donne di Opzione Donna. c'era un fondo, è stato stornato su altre poste di bilancio non meglio identificate. Noi stamattina chiediamo, così come era stato l'accordo politico raggiunto il 7 agosto scorso, che siano rimesse nelle poste di bilancio i nostri fondi. Chiarissimo. Orietta, in bocca al lupo per questa mattina, fateci sapere come andrà questo incontro e magari prossimamente ritorneremo certamente a darvi Credi voce intanto. Forza donne! Forza donne! Grazie. Grazie ad Orietta Armiliato. Allora, Fabio Venanzi, volevo tornare a lei, ci sono anche degli ascoltatori pronti a raccontarci il caso familiare, per così dire, un commento su questa vicenda di Opzione Donna, il destino di queste lavoratrici accomunato in queste ore a quello degli esodati, oppure potrebbe esserci una soluzione secondo lei solo per una di queste due categorie? No, guardi, sicuramente risolvere il problema che stava esponendo adesso Orietta significherebbe soltanto creare altre aspettative poi nei confronti di altre lavoratrici, perché lei nel momento in cui dovessero tornare e allentare le maglie, quindi consentire l'accesso alle lavoratrici nate praticamente dopo l'agosto del 57, con l'eventuale eliminazione della finestra mobile della speranza di vita, significherebbe estendere la possibilità solo a quelle nate fino al 31 dicembre del 58. E poi naturalmente, Deborah, converrai con me che ci sarà il problema delle nate del 59 e poi ci sarà quello delle nate nel 60. Diciamo che ecco, si creerebbe un precedente che potrebbe dare adito a un domino senza fine. Detto questo, però, se una normativa contemplava questa opzione che nel frattempo è cambiata, c'è tutta, Fabio, lei lo sa benissimo, come dire, la questione legata al tema dei cosiddetti diritti acquisiti che non si possono cambiare continuamente. Poi si può fare una discussione molto ampia sull'argomento, però magari possiamo approfittare per farla dopo il giornale radio. Mi sembra un'ottima idea, andiamo. Chiedo pazienza a Mimmo da Lucca, Vittorio da Monza, ma vi ascoltiamo immediatamente dopo le informazioni dei colleghi del giornale radio. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori, Franco Schipani, la pecora nera di Sara Tardelli e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Cuore e denari. Neppure Superman sarebbe in grado con un gesto di salvare tre vite. Un donatore invece con ce la fa. Con la criptonite non ce la fa, dici? No, perché da ogni sacca di sangue intero donata possono essere prodotte fino a tre sacche mediante naturalmente la separazione degli emocomponenti, col vantaggio che per donare il sangue non bisogna essere superuomini né eroi, è sufficiente essere sani, aver compiuto 18 anni di età, ne parliamo tra poco. Se siete donatori, mi raccomando, intervenite 800 24 00 24, chiamateci anche se vivete grazie ad una donazione, raccontateci la vostra storia, noi vi aspettiamo. Passano gli anni ad aspettare di pigliare la pensione, non dover più lavorare. Beh, stavo pensando che bisogna essere Superman anche per campare senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e senza pensione per un bel numero di anni. Quello è vero. Bisogna veramente cimentarsi con tutte le migliori doti possibili, così come per una donna, perché anche di donne stiamo parlando stamattina, bisogna essere Wonder Woman per fare le battaglie che stanno facendo proprio in questi mesi le donne di Opzione Donna. Insomma, passano gli anni, molti, troppi per coloro che in quegli anni restano fuori dal mondo del lavoro pur non riuscendo ad entrare nel sistema pensionistico. Due battaglie oggi ritornano a farsi sentire al Ministero dell'Economia. Stamattina a Roma un gruppo di esodati e le donne del comitato Opzione Donna. Per gli esodati c'è in ballo la settima salvaguardia che potrebbe sfumare per un gruppo appunto di lavoratori che sono fuori dal mercato del lavoro ma non riescono ancora a completare, a perfezionare i requisiti pensionistici. E poi appunto abbiamo già ribadito nella prima parte di Cuore e Denari quelle che sono le contestazioni mosse dalle donne che appartengono a questo comitato. Con noi tutta la sintesi la sta facendo Fabio Venanzi, esperto di questioni previdenziali per il Sole 24 Ore. Abbiamo invitato gli ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24. Allora, gli ultimi minuti su questo argomento dedicato a dare voce anche agli amici che chiamano da casa, cominciando con Mimmo dalla provincia di Lucca, che saluto. Mimmo, benvenuto. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Dunque, sto telefonando per mia moglie, sì, la quale ha 59 anni, ha superato il minimo legge per andare in pensione, e con la signora Fornero invece ci potrà andare soltanto a 68 anni, vale a dire fra 10 anni. È una autonoma, per cui siccome non percepisce lo stipendio perché l'azienda è quella che è, certo, sono io che gli faccio i versamenti con la mia pensione, che a fortuna ci sono andato 3 anni fa, 60 anni, e dovrà versare ancora 36.000 euro da qui a quando andrà in pensione, che non prenderà mai, perché al massimo mi hanno detto al CAF che potrà arrivare con questi versamenti sarà un aumento di 50 euro sulla pensione, per cui potrà arrivare a recuperare i soldi soltanto dopo 60 anni. Lo dico, non c'è la possibilità di andarci, magari rinunciando anche, se vuoi, anche a un qualcosa di sensibile, pur di andare e togliersi questa cosa qui. Vediamo se c'è la possibilità, Mimmo, per la sua consorte di esercitare una qualsiasi forma di opzione al femminile da qui ai prossimi 10 anni. Credo che Fabio Venanzi sia caduto con la telefonata, vediamo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento telefonico. Mettiamo anche, allora, così mettiamo un po' di fieno in cascina, come si dice, la questione che ci pone Vittorio da Monza. Vittorio, benvenuto. Buongiorno anzitutto e grazie, siete fantastiche ragazze. Grazie Vittorio, grazie per le ragazze soprattutto, ecco. Ci dica. Dunque, il mio è un caso classico, ho accettato la proposta dell'azienda, la mobilità, anche perché questo mi dava la possibilità di accudire meglio un figlio portatore di handicap, e prevedeva la mobilità fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi. Se non che poi è mutata la legge, e quindi adesso il mio obiettivo sono 42 anni e 10 mesi, vista l'aspettativa di vita, sì. E questo sì, perché devo fare dei versamenti volontari che sono circa 8.000 euro all'anno, il che è una bella cifra. Sì, certo. Visto sono che... ancora, mi reputo comunque ancora un fortunato, perché avendo avuto un buon TFR da operare 3 anni sempre a questa azienda, sto utilizzando questi danari per pagare i contributi, e stipendio ovviamente niente, non se ne parla. E mia moglie invece ricade in opzione donna, praticamente lei avrebbe i requisiti, però siccome è stata aggiunta la finestra di un anno, scatta l'anno e quindi non avrebbe più diritto. Vittorio, un bel bingo. Complimenti intanto per la lucidità con cui ci racconta questa sua situazione familiare, veramente complicata a 360 gradi. Grazie per averla condivisa con noi. Fabio Venanzi, ritorno da lei. Partiamo magari dall'ultimo caso, se lo ha sentito, poi le riassumo invece la situazione che ci aveva manifestato Mimmo, e riguarda Mimmo appunto l'ho sentito, Deborah, non ho sentito l'ultimo purtroppo. Allora partiamo da Mimmo, dalla situazione della moglie. 59 sì, anni, andremo in pensione a 68, lavoratrice autonoma, quindi requisiti ulteriormente stringenti per il trattamento pensionistico di queste categorie professionali. C'è una qualche forma di opzione femminile che questa donna può esercitare da qui al prossimo decennio, a parte tutti i versamenti aggiuntivi che deve fare il marito per conto suo? Assolutamente no, perché ha parlato di un requisito contributivo minimo, e quindi immagino che abbia poco più di 20 anni. Se ne avesse almeno 35 avrebbe la possibilità di uscire con l'opzione donna, avendo già superato abbondantemente i 57 anni di età, però evidentemente manca sul requisito contributivo gli anni necessari per accedere alla pensione. Certo. Quindi sì, solo la vecchiaia. L'unica consolazione magra che possiamo dargli è che comunque, anche se la Fornero non ci fosse stata, comunque i requisiti alla non c'erano. Di vecchiaia sarebbero stati prolungati di molto, perché già con le riforme estive del 2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia erano stati prolungati. Allora, Vittorio in realtà ha chiamato da Monza, non aveva una domanda da farci. Ci ha raccontato quello che è successo a casa sua. Si sono incastrate entrambe le situazioni. Lui è un esodato, la moglie appartiene alla categoria di chi potrebbe esercitare l'opzione donna, ma si è vista sfumare questa opportunità proprio per la revisione dei termini previsti dalla nuova disciplina appunto dell'INPS che abbiamo indicato prima, per cui a Vittorio possiamo solo augurare di avere tanta pazienza. Con il suo TFR si sta versando i contributi che mancano al perfezionamento appunto dei requisiti pensionistici. Aggiungiamo che ha anche un figlio portatore di handicap, per cui non possiamo fare altro veramente che dar voce a queste situazioni nella modalità che possiamo, attraverso la radio, attraverso il nostro programma. Venanzi, Cuore Denari questa mattina era un po' particolare nella parte di denari, perché quello che abbiamo voluto fare è raccontare la manifestazione di Roma, essere sul pezzo, come si dice. C'è qualche altro messaggio per concludere che vuole passare come esperto di questioni previdenziali sulle due battaglie che abbiamo di cui abbiamo rinfrescato la memoria agli ascoltatori questa mattina? Guarda, Deborah, sinceramente no, per il semplice motivo che se ne parla tanto sia di settima salvaguardia che di revisione anche dei requisiti di accesso per la generalità dei lavoratori. Le pensioni sappiamo benissimo le flessibilità sono un argomento, in uscita, esatto, c'è tutta la partita anche le su questo. Le pensioni sono un argomento sensibile per i nostri ascoltatori e per tutti, perché interessa prima o poi tutti quanti noi, e purtroppo ogni operazione che va fatta deve essere ponderata soprattutto nei costi. Ritengo che se già il governo riuscisse a riesumare tra virgolette le somme per garantire la settima, speriamo ultima salvaguardia, perché poi il contingente dovrebbe essersi esaurito, meglio la platea dei potenziali beneficiari. Ah, la settima era l'ultima? L'ultima ufficiale è la sesta, quindi la settima è quella che teoricamente è, diciamo, in pectore, che dovrebbe uscire. Se uscirà, questo non lo sappiamo. Abbiamo il termine del 15 di ottobre, che è il termine ultimo per la presentazione del disegno di legge di stabilità, dove il governo ci farà capire che cosa ha intenzione di fare sia su questo e sia sull'eventuale proroga dell'opzione donna. Non ci dobbiamo dimenticare, come ultima cosa, che l'INPS tiene al momento sospese tutte quelle domande di quelle lavoratrici che perfezionano il diritto quest'anno e che per effetto della finestra mobile conseguirebbero la pensione l'anno prossimo, in attesa che il Ministero del Lavoro dica se la finestra mobile si applica o non Chiaro. Si applica. Allora aspettiamo le novità della legge di stabilità. Intanto grazie a Fabio Venanzi per essere grazie stato con noi. Grazie, buona giornata, buona giornata. Torni presto a trovarci. Infatti Nicoletta la evoca naturalmente. Allora invece, adesso cambiamo argomento. Certo. Deborah, sfogliando i giornali di questi giorni, ti sarà sicuramente saltata agli occhi una donazione che ha scatenato un mare di polemiche. Poveretto, tutte le ha trovate, anche lui, per attirarsi gli strali di tutti quanti addosso. Povero sindaco Marino. Allora, tutto parte da quell'attacco di Storace secondo cui la donazione di sangue di Marino era vietata, non valida, inutile, perché, come evidenzia una circolare, ai donatori che hanno soggiornato negli USA e in Canada è applicata una sospensione dalla donazione di 28 giorni. Tanto non dovevo farla, io non guardarmi così. Quindi, la querelle, per la quale sembra che, anzi ho letto che è stata interpellata anche il ministro Lorenzin, rischia di finire in tribunale. Noi naturalmente a Cuore Denari ce ne tiriamo fuori, ma cogliamo l'occasione per parlare di donazione di sangue. Lo facciamo col dottor Aldo Zino Caligaris, presidente nazionale FIDAS, la Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità e buongiorno a tutti i radioascoltatori. I nostri ascoltatori si sono già messi in contatto con noi, 800 24 00 24, abbiamo tempo fino alle 12 per confrontarci, per raccontare le nostre esperienze, per raccontare che cosa significa per un donatore, no? Scegliere di diventare un donatore e quindi fare questo gesto che è assolutamente importante, ma anche quali sono le paure, i timori che ci trattengono. Ci sono poi anche persone che ci stanno scrivendo, vorrebbero donare ma non possono farlo. 800 24 00 24, dottore, tra due litiganti verrebbe da dire il terzo gode, no? Perché la polemica ci offre un tema a noi caro su un piatto d'argento. Tanti gli aspetti che vorremmo toccare e condividere con i nostri ascoltatori, come ho anticipato, ma inizierei dal motivo della discordia e parliamo quindi di sospensioni temporanee. Il sindaco Marino ha soggiornato negli Stati Uniti e quindi secondo Storace Non erano passati al momento della donazione questi 28 giorni famosi previsti dalla circolare per poter donare. Allora, la prima cosa importante da dire è che la donazione del sangue è un atto sanitario. Il donatore è sempre una persona volontaria. Donare il sangue non è un diritto, ma è una disponibilità ad offrire generosamente qualcosa di sé fondamentale e strategico per assicurare una terapia ad altre persone bisognose, e passa attraverso, e in Italia è l'unico paese in Europa, una valutazione che è una valutazione fatta da un medico sulla base di criteri molto ben definiti a livello normativo e da quelle che sono le attuali conoscenze scientifiche, per garantire innanzitutto la sicurezza del donatore e soprattutto per garantire la sicurezza del ricevente. Quindi nel caso specifico parliamo dell'ipotesi di essere entrati in contatto con il West Nile virus, un virus che viene trasmesso dalla zanzara, che è endemico ormai da tanti anni in alcuni paesi del mondo come gli Stati Uniti e il Canada, ma che di fatto sta diventando un problema anche in Italia. Ci sono parecchie province in Italia dove il West Nile è stato riscontrato a livello proprio epidemiologico, e pertanto i donatori che hanno soggiornato anche solo una notte in una delle province, e ne cito alcune come Bologna piuttosto che Venezia, piuttosto che Novara, Vercelli, Alessandria in Piemonte, ma altre province della Sardegna, dove appunto questo virus è presente, i donatori o vengono sulla base appunto di una circolare ministeriale condivisa dal Centro Nazionale Sangue sospesi per 28 giorni dal soggiorno, oppure possono essere sottoposti a un ulteriore test che praticamente rileva, come per la presenza dei virus dell'epatite C, dell'epatite B e della la presenza di questo eventuale virus. E quindi, e questo sulla base insindacabile di quello che è il criterio di idoneità alla donazione, che ripeto è formulato da un atto medico e quindi da un livello di competenza e di conoscenza della sicurezza e della tutela del donatore e del ricevente che credo pochi altri esempi in Europa si possano trovare. Dottore, però ci sono anche delle sospensioni definitive. Ci aiuti a ricordare le condizioni che portano all'esclusione definitiva dalla donazione? Sì, allora le sospensioni definitive sono ovviamente sospensioni più gravi, sono sospensioni di gravi compromissioni dell'apparato cardiovascolare. Penso per esempio a una persona che ha avuto un infarto, piuttosto a persone che hanno avuto diciamo dei tumori, piuttosto che leucemie o altre patologie gravi, diciamo dei metabolismi come diabete in maniera grave, e quindi tutte quelle patologie, diciamo, che comunque comprometterebbero con la donazione ulteriormente lo stato di salute del donatore, del soggetto, o che comunque certo, ovviamente non permettano una regolare ricostituzione di quelli che sono gli elementi del sangue, che lo ricordiamo sono fondamentalmente tre: i globuli rossi, le piastrine e la parte liquida del plasma, che poi sono necessari e insostituibili per la vita della persona. Quindi si dona una parte, si donano 450 ml di sangue se si fa la donazione di sangue, se si fanno le donazioni di emocomponenti si dona solo plasma o piastrine o globuli rossi, però di fatto l'organismo, che ha un suo metabolismo regolare per ricostituire questi elementi, deve avere tutte le condizioni per poter poi garantire al donatore, che è persona sana, di rimanere tale. Chiarissimo. Intanto tutti i vostri dubbi, le vostre esperienze, i vostri racconti, 800 24 00 24, ma anche i messaggi al 349 238 6666. E dottor Ozzino Caligaris, voglio leggerli i messaggi di alcuni ascoltatori. Inizio con quello di Manu, dalla provincia di Belluno. Le ultime tre volte che ho donato il sangue sono svenuta per la pressione troppo bassa e così mi hanno detto gentilmente di tenermelo e mi sono sentita inutile. Un altro ascoltatore, ne faccio una carrellata e poi lei così. Buongiorno, anni fa mi scartarono dalla donazione perché peso meno di 50 kg, anche se sono alta 1,55, e non mi sono più iscritta. Questa cosa non l'ho mai capita. Un altro ascoltatore si autolimita, cioè decide lui di non donare perché fa questo ragionamento, lo pone alla sua attenzione. Io non dono perché il mio sangue è AB positivo e se non ho capito male lo posso dare solo agli altri AB, ma lo posso ricevere da tutti, quindi quel tipo di sangue è quasi inutile. Giusto il ragionamento. Ci sono anche, dottor Ozzino Caligari, se lei lo sa bene, anche delle informazioni che noi acquisiamo ma non sono assolutamente, non sono corrette, quindi ci portano ad autoescluderci. Allora iniziamo dalla signora che è svenuta per la pressione troppo bassa e si è sentita rispondere lei stia a casa. Dottore. Allora, il discorso della pressione è un discorso abbastanza frequente nelle donne, soprattutto poi nei giovani, ai quali rivolgiamo sempre un appello di essere sensibili a questo gesto di solidarietà, a questo gesto di partecipazione civica, a questo gesto veramente di volontariato così importante per la salute dei cittadini. Però di fatto la pressione è un elemento importante, perché dopo essere stati sdraiati, aver donato una parte del sangue di feto, che è una quantità, e qui mi collego anche alla seconda domanda, che è stabilita dai criteri per la corretta conservazione e standardizzazione, quindi la corretta modalità di raccolta del sangue donato, richiede una quantità di almeno 450 ml, perché è proporzionato a quelle che sono le sostanze contenute nei flaconi sterili e monouso, che poi servono per conservare il sangue e per essere trasfuso, e che ovviamente vanno in proporzione al discorso anche del peso corporeo. Cioè, se noi leviamo una persona una quantità di liquidi che praticamente corrisponde, il sangue di solito nel nostro corpo è un tredicesimo del peso corporeo, quindi una persona di 65-70 kg ha circa 5 litri di sangue, sì. Levandone 450 ml ne leviamo il 10%. Ecco quindi che andiamo in qualche modo ad alterare questo equilibrio che riguarda anche la circolazione interna, quindi se c'è pressione bassa, dopo aver sottratto, aver fatto questo salasso, questa donazione, è ovvio che il circolo sanguigno può avere delle ripercussioni. Quindi sono tutte tutele nei confronti del donatore. Elementi di grande tutela del donatore. Allora, la signora di Belluno può tentare di donare sangue, magari non d'estate, magari se prende comunque un caffè o un tè zuccherato la mattina, che non è controindicante alla donazione, e se comunque magari nella sua vita fa un'attività regolare sportiva o un'attività fisica sportiva che magari fa tendenzialmente riportare i valori pressori verso la normalità, quindi non si deve sentire completamente escluso. Diverso il discorso della signora per il peso corporeo, perché appunto dovendo comunque raccogliere quella quantità indispensabile per poter garantire il giusto e corretto rapporto tra sangue donato e modalità di conservazione, sì. Se noi una persona che pesa meno di 50 kg leviamo 450 ml di sangue, è ovvio che andiamo a intaccare quella quantità di sangue circolante che invece è fondamentale per la sua buona salute. Quindi i magretti hanno avuto una spiegazione, certo. Bisogna almeno arrivare ai 50 kg, parleremo naturalmente anche, certo, del gruppo sanguinio, del tema del gruppo sanguigno. Per il gruppo sanguigno la questione è... Fermiamoci lì un attimo, dottore, perché noi adesso andiamo ai mercati. Certo. Intanto tirate fuori tutti i vostri dubbi, tutte le vostre paure, ma anche, e stanno arrivando, i vostri ringraziamenti. Ci sono persone che, lo sottolineiamo, vivono proprio grazie alla donazione di sangue. E quindi su questo torneremo naturalmente con il nostro ospite, il dottor Aldo Zino Caligaris. 800 24 00 24, andiamo. Andiamo. Cuore e denari. Ora passo a presentarvi la futura Mrs. Exclusive, Grace Campbell. Eccola qua! Guardatela! Non è bellissima! Ha appena donato il sangue e ne ha ancora abbastanza per arrossire come una mammola. Eh sì, dietro ogni grande uomo c'è una donna che alza gli occhi al cielo, gente. Sono Bruce Nolan per Eyewitness News con tutti gli amici qui della donazione di sangue che vi ricordano... Sì, il tuo miracolo! Ed ecco, torniamo insieme a parlare di donazione di sangue. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Aldo Zino Caligaris. Dottore, stiamo rispondendo ai nostri ascoltatori, tantissimi messaggi, telefonate, prima di affrontare il secondo spunto, che la vicenda, la querela sulla donazione di sangue del sindaco Marino ci ha offerte, che è quello della carenza di sangue. Il sindaco di Roma ha parlato di carenza di circa 30.000 sacche nella capitale ogni anno. Vorrei rispondere all'ascoltatore che si autoesclude dalla donazione dato che ha un gruppo sanguigno AB che secondo il suo parere non è così utile per gli altri gruppi. E questo ha scatenato naturalmente la curiosità dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo: io sono zero positivo, il mio sangue va bene. Altri che dicono: ma ci sono diversi tipi di sangue. Diamo un messaggio chiaro che risponda a tutti i dubbi in questo campo, dottore. Giusto dire che tutti i donatori si devono e si possono presentare per offrire la propria disponibilità a donare, di qualsiasi gruppo ovviamente siano, perché comunque nella corretta valutazione che viene fatta per la donazione si opta poi per il tipo di emocomponente che il donatore può donare, utile per poter garantire appunto una terapia, ma anche utile per non essere poi sprecato, quindi certo, non utilizzato. Quindi noi doniamo donatore, il sangue, e il resto ci pensano i medici, esatto, e l'equipe, non ci preoccupiamo. Si fa una scelta, perché il donatore AB, che ovviamente può essere meno utilizzato ai fini trasfusionali per i globuli rossi, è un donatore preziosissimo invece per la donazione di plasma, che serve per la produzione di medicinali plasma derivati. E noi in un anno raccogliamo quasi 800.000 kg di plasma da avviare al frazionamento industriale per produrre medicinali come l'albumina, le immunoglobuline, i fattori della coagulazione, che sono indispensabili, salvavita per tanti pazienti, e non c'è altro modo di ottenerli attraverso la lavorazione industriale se non partendo da una donazione volontaria. Quindi gruppi sanguigni di tutti i tipi, unitevi, ben, esatto, unitevi, pronti e disponibili, perché la vostra donazione sarà gestita in maniera tale da non sprecare neanche una goccia del sangue donato. Allora, abbiamo invitato con Deborah i nostri ascoltatori a intervenire, spazio naturalmente agli ascoltatori. Iniziamo con Paolo da Biella, Rosalba da Milano. E Paolo, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo anche Giovanni da Milano e un altro Danilo. Insomma, Paolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, innanzitutto complimenti anche per il servizio di informazione che fate. E proprio per questo motivo volevo sottoporre una domanda, sì, che non vuole essere provocatoria. Io sono donatore da 30 anni, sì, e continuo a farlo, anzi quando mi capita invito anche amici e conoscenti a farlo. E qualcuno mi risponde negativamente dicendomi: no, perché il mio sangue se lo vendono. Io vorrei capire una volta per tutte come funziona il discorso della donazione, cosa c'è dietro, perché questa disinformazione a volte può essere dannosa. Grazie. Allora, grazie per questa domanda. Tra l'altro ricordiamo che donare il sangue è un atto volontario non retribuito, il sangue non si vende e non si compra, ma dottore, alcune regioni carenti strutturalmente o eccezionalmente di emocomponenti acquisiscono gli stessi da altre regioni, no? Compensandone le spese, sì, di produzione, però le tariffe sono stabilite a livello nazionale nell'ambito, certo, della mobilità sanitaria. Non so se è a questo che si che riferisce un po' Paolo alla polemica, oppure dottore? Sì, allora, intanto ringrazio il donatore ascoltatore Paolo di Biella, che peraltro è la mia regione di provenienza, di origine, quindi sono biellese di origine, quindi mi fa piacere che sia lui a porre questa domanda. Domanda che peraltro solleva degli aspetti molto delicati. La donazione è un gesto volontario non remunerato. Questo in Italia è garantito, cosa che non avviene in tutti i paesi d'Europa. In Germania e in Austria, per esempio, si pagano le donazioni di sangue, e quindi partiamo da un presupposto di eticità. Come tale, quindi, la donazione deve essere trattata in maniera totalmente senza alcun tipo di scopo di lucro. Quelli che sono i rimborsi associativi servono per garantire le 3 milioni di donazioni che ogni anno si fanno, provenienti da 1.700.000 donazioni, per garantire quasi 8.500 trasfusioni al giorno ai nostri pazienti, quindi facendo donare ai donatori ciò che serve quando serve, gruppo sanguigno emocomponente, in maniera specifica, e cercare quindi di garantire l'autosufficienza su tutto il territorio nazionale. Il sangue è un livello essenziale di assistenza, quindi come tale deve essere garantito ai cittadini come gli antibiotici, i bisturi, il chirurgo, le TAC, le risonanze magnetiche. Non averlo a disposizione significa ritardare le terapie, non assicurare la terapia a pazienti che ne hanno bisogno come talassemici per poter sopravvivere, e di conseguenza è un meccanismo molto complesso, dove da una parte la corretta programmazione deve tener conto dei reali bisogni, Dall'altra parte, quelli che sono gli impegni per poter assicurare la disponibilità di questa terapia passa anche attraverso delle questioni economiche, perché produrre un'unità di sangue ha dei costi. Quindi nel momento in cui una regione comunque mette a disposizione di altre regioni in compensazione, quindi in mobilità sanitaria, delle unità di sangue, rientra e deve rientrare dei costi sostenuti per la produzione di questa donazione. Certo. Che passano dalla promozione della donazione, la gestione della chiamata, la raccolta del sangue, la sua qualificazione biologica, quindi gli esami eseguiti per poter assicurare che quella donazione sia sicura, la conservazione, la lavorazione in sangue, piastrine e plasma. Quindi tutta una serie di passaggi e di meccanismi che hanno semplicemente dei costi di produzione e che come tali, come giustamente diceva lei Nicoletta, sono stabiliti da tariffe nazionali uguali per tutte le regioni, devono essere compensate nel momento in cui appunto delle unità di sangue passano da una regione all'altra. Quindi giustamente si parla di costi, ma non si parla né di fatture né di rimborsi, perché il tutto rientra nella mobilità sanitaria, come quando un cittadino si sposta da una regione ad un'altra per poter avere una prestazione sanitaria. Io credo che la risposta dimostra, vedi, che anche questo è un tema a cuore denari. Sempre più temi, perché come c'è l'aspetto, come ne avevamo parlato. Etico, ma c'è anche l'aspetto economico, c'è l'aspetto di programmazione, c'è l'aspetto dove le regioni necessariamente, e qui entrano in campo poi le istituzioni a tutti i livelli, quindi le istituzioni nazionali, le istituzioni regionali, ma anche le istituzioni locali, come i sindaci, devono fare la loro parte per poter garantire a tutte le regioni la propria autosufficienza. Allora, per qualunque altra domanda, richiesta, noi siamo qua, 800 24 00 24, ci sta aspettando Rosalba da Milano, che vorrei sentire prima di andare a tra l'altro, dare la visto linea che è una donna, traffico. Se mi permetti, vorrei anche chiedere una cosa al dottor Ozino Caligaris proprio sul tema donna che va a fare la donazione e stile di vita, perché una mia amica separata qualche volta al centro dove va a fare la trasfusione nicchia un po' su questo aspetto. È possibile? Quanto chiarimento ti chiede sulla tua vita coniugale il centro dove si fa il prelievo, proprio perché chiaramente si vuole essere sicuri, no? Che lo stile di vita sia ovviamente adeguato anche a questa operazione, mi passi il termine. L'aspetto della donazione sulla vita privata della persona è un aspetto molto delicato, perché ovviamente dobbiamo garantire la sicurezza e quindi vanno eventualmente non ritenuti idonei in maniera temporanea, ovviamente parliamo in maniera definitiva soltanto per comportamenti molto pesanti come uso di sostanze stupefacenti o rapporti a rischio sessuali continuativi, quindi sono quelle le esclusioni permanenti, ma le esclusioni temporanee sono quelle che possono esporre una qualsiasi persona al rischio di aver contratto delle patologie infettive. Ovviamente tutto questo poi rientra nel giudizio del medico che dà la valutazione, ma sono questioni delicate dove il donatore non si deve sentire sotto esame, ma deve sentirsi responsabilmente soggetto che vuole dare una sua disponibilità e semmai, se dovesse aver avuto dei comportamenti a rischio, la rinvia di qualche tempo per poter garantire innanzitutto la massima tutela di se stesso e poi garantire la sicurezza per il ricevente. Ecco, il donatore sicuramente fa delle scelte che sono funzionali al suo benessere, ma sono garanzie anche di qualità del dono che va a fare, quindi è importante trasferire questo il concetto. Il senso di responsabilità, la donazione è volontaria, ma è responsabile. Rosalba, stia ancora lì un attimo, dopo le informazioni sul traffico siamo da lei e insieme a lei con Giovanni da Milano e a Danilo, a tra poco. Cuore e denari. Ci vuole calma e sangue freddo, calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo, oh, oh, oh. Buongiorno Rosalba, che ci chiama da Milano, donatrice. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, naturalmente è inutile dirvi che siete i migliori per me. Oh, grazie Rosalba, ce lo dica che ci fa piacere, una carezza sì, al cuore. Sì, sì, bravissime. E niente, io sono donatrice da 4-5 anni, non tantissimo tempo. L'anno scorso mi hanno dato il primo diploma delle 10 donazioni. Ecco, premetto che prima avevo provato, però non, appunto per il discorso 50 kg non si poteva, e io sono aumentata di 2 kg per poter donare il sangue, ecco, perché mi inorgoglisce questa cosa qua moltissimo, perché ogni volta che io vado a donare sangue non nego che esco, che sono strafelice, perché penso che il mio sangue possa servire appunto a salvare delle vite, anche perché ho uno zero negativo che posso donare a tutti e purtroppo riceverlo solo dal mio gruppo. Sì. Ecco, e sono molto felice. Poi essendo in menopausa posso donarlo anche 3 volte anziché 2 all'anno. Ecco, così ancora di più. Così certo, Rosalba ha dato un'altra informazione che risponde alle... E poi non ultimo il discorso controlli, perché ogni volta che comunque si va a donare sangue siamo super controllati naturalmente, no? E questo dovrebbe secondo me incitare appunto le donne soprattutto a donarlo, perché serve, è utile, e insomma lo sbandiero ai 420. Ecco, sono felicissima. Rosalba, lei è stata molto efficace, dottor Zino Caligari, se dovete prendere Rosalba come testimonial, come perché testimonial, veramente con un messaggio riuscite a centrare tante informazioni. Andiamo, ha detto delle grandi verità. Poi andiamo un attimo anche da Giovanni da Milano, perché in un certo senso la sua testimonianza prosegue e approfondisce quello che ha anticipato la nostra amica. Giovanni, buongiorno. No. Pronto? Sì, Giovanni, la sentiamo. Siamo. Anche lei è donatore, ma vuole sottolineare un aspetto della donazione. Sì, perché si parla sempre di generosità, ma in realtà è più un atto egoistico. Io ho fatto il donatore per più di 25 anni, sì, e dopo i 40 anni mi è stato misurato il valore del PSA, che è sempre stato al di sotto dei limiti di guardia. A un certo punto però in una donazione si è verificato che si era leggermente superato quel limite. Da lì il campanello di allarme e dopo tutta una serie di controlli ho scoperto di avere un tumore alla prostata, tra l'altro molto aggressivo. Che non avrebbe scoperto mai e Giovanni, poi mai, perché non avevo nessun sintomo di alcun genere. E quindi io devo probabilmente la mia vita all'aver donato, non aver ricevuto il sangue. Grazie Giovanni per questa sua testimonianza che vedo che colpisce anche Deborah. Sì. E andiamo subito. Anch'io sono un po' donna di cuore. Andiamo subito a Danilo che ci chiama da Milano. Sì, pronto. Buongiorno Danilo, benvenuto. Buongiorno, grazie, complimenti per la vostra trasmissione. Voi ci state aiutando, e state aiutando naturalmente anche tutti i donatori impegnati a coltivare, a diffondere la cultura della donazione. Vi lanciamo proprio questa richiesta, aiutateci, aiutate anche il dottor Zino Caligari a far passare questo messaggio. Danilo. Ecco, io volevo chiedere questo. Io ho 52 anni, sono stato donatore per 10 anni. Poi purtroppo 5 anni fa... ho avuto un piccolo aneurisma cerebrale che è stato poi trattato con un certo diciamo ematoma, è stato trattato con un'embolizzazione, cioè vale a dire sono state immesse nelle arterie 3 microspirali citati, no? E quindi è stato escluso. Però adesso lei sta bene. Sto benissimo, è guarito, faccio sport, ho ripreso a fare immersione subacquea come facevo un tempo, eccetera. Volevo e la domanda è: ma allora io adesso potrò mai tornare a donare, dottor Zino Caligaris? Allora, è ovvio che patologie di questo tipo sono escludenti alla donazione, però una corretta valutazione con gli esami ovviamente post interventi eseguiti possono permettere di fare una valutazione definitiva e ritenere se la persona può essere riammessa alla donazione, oppure se il rischio residuo o le eventuali terapie preventive ovviamente di ulteriori ricadute in questa situazione illustrata possano impedire la donazione stessa. Quindi in questo caso ci troviamo proprio di fronte a un donatore prezioso e disponibile, che però ovviamente deve essere tutelato innanzitutto per la propria salute, quindi è una questione che deve essere attentamente valutata e andando ad analizzare esattamente il motivo della sospensione e andando a valutare se questo motivo è totalmente superato. E le occasioni degli interventi sono state preziosissime e importanti e credo che sia opportuno ricordare un dato fondamentale, una grande verità. In Italia donano soltanto 1 su 3 dei donatori sono donne, quindi è molto importante l'appello della nostra donatrice che ringrazio e colgo l'occasione per ringraziare tutti i donatori, 1.700.000 donatori italiani di sangue, perché ha indicato veramente la strada giusta come componente femminile della società per poter contribuire a un bisogno che è in continua crescita e che a volte appunto avverte delle battute d'arresto quando ci sono le carenze. Quindi forza donne. Forza donne, ne ha parlato Deborah, vedi, un altro collegamento con il nostro tema di oggi, forza donne. Tra l'altro, dottor Ozzino Caligari, se ci sono delle condizioni che frenano un po' le donne durante l'età fertile, certo. Periodo, no? È facile che una donna sia carenza di ferro. E anche qui una tutela della donatrice. Però, appunto, poi la pressione che, di cui domani parleremo, perché avete letto, no? Si stanno un po' dall'America, arriva un ritocco ai valori della sistolica, ne parleremo proprio domani di pressione, ma anche la pressione tendenzialmente bassa per alcune donne rischia di essere un altro freno. Poi c'è il periodo della gravidanza, l'allattamento, insomma dovreste fare proprio un vademecum, forse la FIDAS l'ha già fatto, anche per le donne. Certo, il siti del Centro Nazionale Sangue, i siti della FIDAS, dell'AVIS, della Croce Rossa, della FADRES contengono queste informazioni e noi da anni ormai stiamo sollecitando le tre categorie che abbiamo riscontrato essere meno diciamo presenti nell'ambito della disponibilità alle donazioni, che sono appunto i giovani per garantire un ricambio generazionale, le donne perché appunto sono una su tre rispetto ai donatori totali e i nuovi cittadini, che sebbene oggi costituiscano quasi il 7% della nostra popolazione, in effetti donano in una misura molto inferiore rispetto alla media nazionale. Insomma, speriamo, noi dobbiamo chiudere, dottor Ozzino Caligari, la ringraziamo, ringraziamo tutti i donatori che sono intervenuti, i nostri ascoltatori, speriamo di aver contribuito a mettere un semino. A giudicare dal fermento al centralino direi proprio di sì. Noi adesso dobbiamo lasciare lo spazio al viaggio nel bio e nella sostenibilità, ma naturalmente ritorniamo domani. Buona giornata a tutti.